Appunto, quello che mi colpisce in questa situazione sì. è che, fermo restando, lo stiamo discutendo adesso alla Camera, siamo tutti d'accordo, che dal punto di vista dei figli, nati fuori o dentro al matrimonio, devono essere esattamente uguali, sì, sì. ma perché queste persone non si contestano la casa, non si contestano l'affitto, non scrivono due righe di eredità? Perché non lo fanno? Ma cosa vuol dire? Cioè, qualche ragione. Ma cosa vuol dire? Anche molti che si sposano hanno la separazione dei beni, voglio dire. Già, esatto, però qua in caso di successione, se muore, anche con la separazione dei beni, ereditano. Cioè possono benissimo regolarizzare con gli strumenti del codice civile, se non lo fanno forse c'è una qualche ragione. Perché le cose non sono queste, se molte volte c'è un'altra famiglia, c'è una moglie separata, ci sono degli altri diritti. Non è che nella vita uno cambia pagina, lascia tutti i rapporti che aveva prima, compresi i figli. Io seguo le vicende dolorose di 800.000 separati con figli in Italia e so cosa vuol dire la conflittualità, cosa vuol dire molte volte i litigi sui figli, cosa vuol dire vite rovinate, le associazioni dei padri e delle madri separate, o anche situazioni di fatto che si trascinano, perché proprio la conflittualità nasce quando ci sono situazioni molto complesse, non è sempre così molto facile. Comunque, anche una recente trasmissione televisiva, una signora che è venuta a lamentare la sua esclusione da una cerimonia, non ha detto che è stata la figlia del defunto che ha detto un out, se viene lei non vengo io. Vabbè, questo non... Però in ogni caso lei mi risponda con un sì o con un no. Se due persone convivono, un'unione di fatto, uomo e donna, hanno figli eccetera, hanno, come dice il sindaco di Bologna, devono avere meno, non so, punteggi in graduatoria di uno che è sposato. Meno. Tutti gli italiani hanno pari diritti, tutti. Chi però si assume tramite il matrimonio civile o religioso delle responsabilità nei confronti della società, la Costituzione impone che debba essere favorito.